Il cacciatore di libri di Alessandra Tedesco. Estate è tempo di vacanze, ma anche tempo di lettura, sì, diciamo la verità. Insomma, quando siamo in ferie abbiamo decisamente più tempo libero. E allora, che cosa c'è di meglio che un romanzo appassionante da leggere sotto l'ombrellone? Oppure se siete rimasti in città, magari sul divano, con il ventilatore acceso, l'aria condizionata. Insomma, per tutto il mese di agosto il cacciatore di libri vi farà compagnia anche il sabato e la domenica mattina alle 10, con consigli di lettura e le consuete interviste agli scrittori. Diciamo un po' che abbiamo selezionato le interviste più interessanti, quelle di scrittori magari più famosi, più popolari di questa stagione editoriale, diciamo che va quasi come l'anno scolastico, dal settembre del 2015 ad ora. In questa puntata abbiamo messo insieme due nomi molto popolari, ognuno nel suo genere, Chiara Gamberale e Marco Malvaldi. Partiamo dalla Gamberale, dal suo romanzo adesso pubblicato da Feltrinelli. Virtualmente un sequel di Per 10 minuti, ma diciamo solo virtualmente perché la protagonista è un'altra, però insomma... diciamo che la protagonista di questo adesso vive un momento emotivo che segue quello vissuto dalla protagonista di Per 10 minuti. Insomma, adesso che sentirete l'intervista si capirà di più. Allora, prima c'era appunto Chiara che doveva affrontare il dolore per la fine di una storia d'amore. In adesso c'è invece Lidia, che ha già chiuso una storia con un suo ex importante e, diciamo, superati i 40 anni, inizia ad aprirsi di nuovo all'amore. Sentiamo Chiara Gamberale. Non potrebbe esistere adesso se io non avessi scritto Per 10 minuti. Se in Per 10 minuti io raccontavo la possibilità di sopravvivere alle perdite a cui ci chiama la vita, in adesso io racconto la possibilità di vivere no? Anche di ritrovare sentimenti, cose che forse a una certa età, dopo magari 35-40, tendiamo un pochino a sopire, perché adesso è il vero protagonista di questo romanzo. Sì, c'è Lidia, c'è Pietro, che è l'uomo di cui lei inizia ad innamorarsi, iniziano ad avere una relazione, c'è Lorenzo, che è l'ex marito con cui lei comunque ha una relazione a volte anche un po' malata, però insomma molto molto forte. Però il protagonista è l'adesso, cioè il fatto di vivere in quel momento una sensazione precisa e di lasciarsi andare a quella cosa. No, Alessandra, sei perfetta proprio come sempre, nel senso che è questo, cioè Lidia, Pietro, Lorenzo, tutti i personaggi, i sei personaggi che circondano poi Lidia, Pietro e Lorenzo, che invece mettono in scena chi fugge da se stesso e dunque anche dalla possibilità di un adesso, di un incontro reale. Però il protagonista è assolutamente adesso, gli altri sono tutti topolini nel laboratorio dell'adesso che dimostrano cosa succede ai nostri corpi, ai nostri cuori, alle nostre teste, alle nostre abitudini, quando succede quello per cui, no, dovremmo venire al mondo, cioè incontrare davvero un altro essere umano, e che però fatalmente ci terrorizza, perché se la prima parte del romanzo è dedicata all'incanto di questo incontro fra queste due persone poi così diverse fra loro, e la seconda parte è dedicata alla paura. Nella vita ho capito poche cose, però un qualcosa io l'ho capito, che se l'accesso allo stupore implica l'accesso al dolore, non c'è niente da fare, cioè, se stacchi l'antenna la stacchi sia alla possibilità di stupirti che a quella di ferire, di essere ferito. A proposito di paura, c'è addirittura una pagina bianca dove tu hai scritto la parola paura. La paura accompagna spesso il personaggio di Lidia, ma anche di Pietro, però forse perché io donna mi sono identificata più in Lidia, cioè la paura di avvicinarsi all'altro, la paura di portarsi uno zainetto troppo pesante dietro ad una certa età. C'è una frase che mi ha colpito molto di un dialogo fra Lidia e Pietro. Pietro dice: "Ti capisco e non mi spaventi, Lidia". Che, dice Lidia, "Ti capisco e non mi spaventi". Che effetto ha questa frase in Lidia? È il momento in cui è adesso, è proprio la frase grazie alla quale Lidia conduce un programma televisivo che si intitola Tutte le famiglie felici, ovviamente il riferimento a Tolstoi è esplicito, e per cui lei si fa adottare dalle famiglie per capire come si fa a stare insieme, quindi le famiglie di tutto il mondo. Tant'è che conosce Pietro proprio perché Pietro ha un papà separato, quindi ha questo strano menage, strano insomma, non così. Ormai non così no, questo menage in cui vive lui con la bambina, con sua figlia, perché la moglie l'ha tradito con Dio, perché si è chiusa in convento, e Lidia si fa adottare da questa famiglia, e alla fine delle riprese lei si sta sfogando con Pietro, dice: ma sai che gli uomini o non mi capiscono e quindi sono attratti da me, o se mi capiscono sono spaventati. E invece lui dice: no, io faccio tutte e due le cose. E lì la sorprende, per lei è quello l'adesso, la possibilità di un posto poi da chiamare casa. E dov'è casa? È dove le persone ti conoscono e nonostante questo ti amano. E nonostante, perché infatti c'è il nonostante. Un'altra cosa bella di questo romanzo, che si capisce dalle mie parole, insomma, mi è piaciuto molto, mi sono anche molto identificata, è che a un certo punto tu fai i curriculum sentimentali, no, dei due protagonisti, di Lidia e di Pietro, e quindi vai addirittura all'infanzia, ai traumi dell'infanzia, ai genitori, che storia hanno avuto i genitori, poi che modalità hanno sempre applicato nei loro rapporti d'amore, che modalità per uscire dalle relazioni, perché noi siamo poi figli di tutte queste cose qui messe insieme. Cioè, se tutti noi compilassimo il curriculum, forse sarebbe più semplice. Allora, sarebbe più semplice, è un'ipotesi surreale, perché a un certo punto dico: forse per non soffrire più ci piace qualcuno, e cioè allora ci scambiamo il curriculum sentimentale. Le voci sono quelle che hai detto perfettamente tu, aggiungo le referenze degli ex, che quelle sono però quello è ovviamente è un modo per me di raccontare al lettore chi sono questi due personaggi, perché da quel momento in poi ogni loro gesto corre il rischio di venire compreso, anche i gesti più brutali apparentemente. Allora io credo che quando ci innamoriamo, soprattutto a una certa età, cioè quando non siamo più vergini sentimentalmente, perché ci siamo già fatti male, quando si incontrano due persone, in verità se ne incontrano 2000, perché siamo io, tu, tuo padre, tua madre, mio padre, tua mamma, e i tuoi amici, perché lei, Lidia, per esempio, ha proprio una carovana di amici intorno a sé che lei chiama l'arca senza Noè, perché sono persone un po' come lei, perché mentre Pietro è una persona che ha scelto un percorso più tradizionale, quindi si è sposato, anche se pure lui poi la moglie l'ha tradito con Dio, quindi sopra, però l'intento era quello, no, una cosa Lidia è più una hippie, una persona che ha sempre scelto l'amore per l'amore, quindi è circondata da queste persone che sono appunto gli animali dell'arca senza Noè, e quindi che nel curriculum sono chiamati gli affetti collaterali. Allora, il dialogo a cui sono invece più legata di questo romanzo è quando a un certo punto Lidia, in un momento importante dei due protagonisti, finalmente se ne vanno su un'isola. Tu conosci i miei romanzi e sai che le isole mi sono molto care, no? Sulle isole possono succedere per me cose. E a un certo punto c'è un confronto, prima di un confronto serratissimo fra i due, che poi porterà al finale del romanzo. Gli dice: ma allora cosa vuol dire stare insieme per due persone con uno zainetto, come dici tu, così pesante di esperienze? E proprio Pietro risponde, dice: forse avere come presupposto la complessità dell'altro e rispettarla, perché è ovvio, l'amore dopo che sei stato ferito, ma quando sei più grande rischia di avere meno spazio, però io credo che rischi di avere più profondità. Non solo profondità, ma a un certo punto tu parli anche proprio di entusiasmo, perché sia Lidia che Pietro trovano un nuovo entusiasmo nell'innamoramento, nonostante l'età, nonostante tutti i problemi, nonostante gli zainetti, e parli di parole nuove che loro trovano per se stessi e per gli altri. Infatti scrivi: parole nuove per raccontare te a lui, te a lei, te a tutti, a te. Questo per me è il prodigio dell'innamoramento, la possibilità che abbiamo grazie all'altro di raccontarci una nuova storia di chi siamo noi. Cioè, le persone più importanti nel nostro cammino, io credo che siano quelle che ci rivelano qualcosa di noi che non sapevamo. E allora la speranza con questo romanzo è che non solo di trattenere quella persona nella nostra vita, ma quantomeno di trattenere la persona che noi, grazie a questo incontro, siamo diventati. Cioè, che quelle parole nuove diventino parole nostre, ecco, che le mettiamo anche quelle nello zainetto. Un'ultima domanda che riguarda Lorenzo, perché mentre possiamo in qualche modo tutti un po' capire la storia, l'innamoramento, anche quando avviene da grande, da grandi, fra Lidia e Pietro, c'è un rapporto molto speciale che lega Lidia e Lorenzo. 10 anni di matrimonio, poi hanno divorziato, eccetera, eppure c'è un rapporto intenso che è difficile spiegare agli altri, è come se fossero un'entità che è difficile far capire agli altri. È così, tant'è che non a caso è stata molto sofisticata in questa, a non parlare di ex marito, perché non ti viene, secondo me, nel senso che tant'è che io ho inventato una parola per questo rapporto che è l'amore eterno, cioè Lidia e Lorenzo non possono rinunciare, si amano, però non, la vita ha fatto sì che loro non possano stare insieme per tutta una serie di motivi. E quindi hanno accettato che la vita inventasse per loro questo rapporto. Nei miei romanzi, soprattutto in questo, che è un po' anche un bestiario dei modi che noi abbiamo di darci o non darci agli altri, no? C'è chi sta insieme tutta la vita, c'è chi invece proprio non vuole più giocare al gioco dell'amore, c'è chi si inganna, c'è chi inganna l'altro. A me interessano sempre, ma fin da piccola nei miei romanzi ci sono questi rapporti che non hanno un nome facile, no? Non riesci a dare un nome a certe cose. E spesso però, però io attorno a me ne vedo tanti di rapporti ineffabili eppure molto profondi. Spesso le persone per paura, quando non sanno dare un nome a una cosa, allora la cancellano dalla propria vita. Il tentativo invece di questi personaggi è mantenerla, perché certo è vero, il rapporto di Pietro con sua figlia, si capisce, ci mancherebbe altro, è sua figlia. E invece Lidia e Lorenzo sono una coppia senza figli, ma forse il loro amore è il figlio che non hanno avuto, la loro complicità intellettuale. Mentre succedono cose nel romanzo, loro sono come un contrappunto filosofico, no? A quello che succede, parlano. Trovo commoventi questi rapporti, è difficilissimi, però hanno il sapore controverso che poi è la vita. È la vita. Questa era Chiara Gamberale che ci parlava del romanzo Adesso, pubblicato da Feltrinelli. Se pensate che questo romanzo vi possa interessare, allora vi consiglio anche Alicia Jiménez Bartlett, scrittrice spagnola pubblicata in Italia da Sellerio, con Uomini nudi, anche qui si parla di una relazione che inizia dopo i 45 anni, e anche Terapia di coppia per amanti di Diego De Silva, pubblicato da Einaudi. Breve pausa, poi saremo in compagnia di Marco Malvaldi. Il cacciatore di libri. Il barlume è uno strumento che non si può suonare, ma se sei un po' brillo ti fa il verso del mare, e se producessi una nota suonerebbe così. Con whisky, spuma, latte, birra e casse di soda, gli investigatori vanno ancora di moda e cercano una vaga risposta al bancone di un bar. Gli appassionati l'avranno già riconosciuta. Questa è la musica, la sigla che accompagna la versione televisiva dei cosiddetti vecchietti del Barlume, insomma personaggi inventati dalla penna di Marco Malvaldi e pubblicati da Sellerio. L'ultimo romanzo che ha per protagonista questi vecchietti che si impicciano sempre dei fatti di cui non si devono impicciare e soprattutto si impicciano di delitti, insomma vogliono portare avanti indagini eccetera eccetera. L'ultimo libro, dicevamo, si intitola La battaglia navale, pubblicato come sempre da Sellerio. Vi ricordo alcuni titoli della serie del Barlume: La briscola in 5, Il gioco delle tre carte, Il re dei giochi, La carta più alta, Il telefono senza fili. Ma qui al Cacciatore di Libri abbiamo parlato anche per esempio di altri romanzi malvaldi non vecchietti del Barlume, come per esempio D'ore di chiuso e Argento vivo. Chiaramente ogni volta che esce un nuovo vecchietto del Barlume, diciamo così, Marco Malvaldi, tu sei subito preso d'assalto dai tuoi fan. Ormai, come dicono alcuni autori, te lo chiede l'Europa di scrivere sempre dei vecchietti? Cioè te lo chiedono i lettori, insomma. È un duro sacrificio che va affrontato con la consapevolezza di svolgere un dovere sociale, perché io mi considero, come il mio maestro Giorgio Borzacchini, un lavoratore socialmente utile, essendo un umorista. Beh, l'umorismo è fondamentale. Assolutamente, quindi... No, allora, la verità vera è che io mi diverto come un porco a scrivere i vecchietti del Barlume, anche se diventa sempre più difficile trovare un plausibile pretesto per stempiare qualcuno sempre d'estate, sempre nello stesso posto, un anno dopo l'altro. È l'effetto Jessica Fletcher, esattamente. È un qualcosa... Quindi ho cambiato alcune cosine. Primo, ammazzo qualcuno, sì, ma in primavera. Oh, no? Finalmente cambiamo stagione. Il maggio, come si sa, ispira la vita e anche la sua fine. E soprattutto... tento gattopardianamente di cambiare tutto affinché tutto resti com'è, perché il bello dei romanzi seriali, lo dico dal lettore, è trovare ogni volta, certo, quei personaggi. Sono perché... rassicuranti anche ritrovare le stesse caratteristiche, cioè... ma i tuoi vecchietti non invecchiano mai? Allora sì, alcuni invecchiano in questa sede. Mm. Uno dei più diciamo curiosi, il Rimediotti, ha un curioso incidente per cui è costretto a parlare con il tastino, si diceva una volta, quindi sì, purtroppo. Con un eloquio non sempre comprensibile, ma appunto ogni tanto fuori sintonia, e quindi no, i miei vecchietti invecchiano. Uno di loro nel corso del romanzo va in pensione. E qui si capisce che si parla di letteratura, perché essendo in Italia nel 2016... nessuno va più, sì, in pensione. Esattamente, non si parla, chiaro, di fantasia. Però da un certo punto di vista, ecco, invecchiano fisicamente ma non invecchiano intellettualmente. Questo secondo me è molto importante, perché stiamo diventando un paese abbastanza vecchiotto. Questi vecchietti tuoi hanno una curiosità, una vivacità che francamente farebbe invidia a molti giovani. Ma molti vecchietti che conosco hanno una curiosità che fa invidia ai giovani. Penso un esempio di una persona molto nota e che non credo si offenderà a sentirsi chiamare vecchietto è Roberto Vacca, che ormai è alla soglia dei 90 anni, sforna un libro ogni 6 mesi e... ha una vivacità, è curioso di tutto, di qualsiasi cosa lo circondi. Ho avuto, quando abitavo nel mio vecchio condominio, una persona, un ingegnere, che andando in pensione a 70 anni e fischia, decise di iscriversi a filosofia perché ignorava cosa fosse. Giusto, e quindi aveva detto, tempo di imparare. Ora che ho tempo di capire, ho progettato macchine per una vita, adesso voglio capire cos'è sta cosa strana di cui tutti parlano. Senti, in questa nuova puntata dei vecchietti, abbiamo detto i vecchietti sono degli impiccioni perché devono portare avanti le loro indagini con le loro deduzioni, con le loro, insomma, ipotesi. Hanno a che fare con il cadavere di una ragazza, insomma, che viene ritrovato. Quante ne combinano e quante ne sbagliano soprattutto? Beh, allora, diciamo solo questo, che la ragazza che viene ritrovata viene appunto riconosciuta come una badante ucraina, quindi i vecchietti devono andare ai giardinetti, fa rima con vecchietti, vecchietti. Per vari motivi, a cercare di capire cosa succede nel mondo delle badanti ucraine. C'è solo un problema, che le badanti ucraine parlano ucraino. Loro devono cercare di intuire. Esattamente, no, hanno un vantaggio, che è il compagno Mastrapasqua, persona che ha vissuto in Ucraina ai tempi in cui, lo ricordiamo, l'URSS cercò l'ENI per costruire il gasdotto che passava dall'Ucraina, perché l'ENI aveva la tecnologia più avanzata nel mondo di sfruttamento delle... dell'indotto, diciamo, dei prodotti petroliferi online, un po' come se Google invece che a Mountain View si trovasse a Mantova, ecco, per fare un paragone. E quindi quest'uomo aveva vissuto 10 anni in Ucraina e quindi è rincoglionito, ma parla l'ucraino. E ecco, questo... quindi fa da mediatore culturale, insomma. Fa da mediatore culturale, esattamente. E anche stavolta, insomma, riusciranno a spuntarla, mettiamola così. Prima dicevi che ogni tanto diventa sempre più faticoso trovare, come dire, uno spunto, una storia che sia ambientata in quel posto, con quelle persone, in quel periodo dell'anno, eccetera. Però al di là di questa difficoltà, come ti nasce una nuova idea per i vecchietti? Anche in questo caso è tua moglie che suggerisce, come accade in altri tuoi romanzi, oppure ti fa ispirare anche dalla casualità? Allora, dunque, per un curioso segno del destino, sì, anche questa storia di mia moglie. Cioè, quasi... praticamente Marco Malvaldi è finto, diciamo la verità. Esattamente. E tua moglie che fa tutto, ha le idee. No, tutto no, lei ha le idee. Poi in realtà io subappalto la scrittura del libro in India, a Mumbai, ho una serie tu metti solo il nome? Assolutamente, metto il nome. Una e prendi le royalties? Assolutamente sì, anzi se qualcuno ci prova a toccarle, parto di avvocati. No, diciamo che vabbè, la trama appunto è di Samantha, il mio contributo è diciamo il metodo investigativo, che è appunto questo fatto da vecchietti e dalla controparte semigiovane e razionale, perché diciamo è un metodo di indagine che si basa su due fasi. Gli alchimisti dicevano rectificando in venies, no? Comportandoti in modo corretto troverai. I miei vecchietti invece usano il motto incasinando in venies. Quindi fanno un gran polverone, poi bisogna aspettare che la polvere si posi, un po' come il caffè turco, no? Esatto. E a quel punto si può guardare bene. Però se prima non incasini, se prima non mescoli, se prima non provochi reazioni, è anche difficile accorgersi che è successo qualcosa che non va, perché... Una delle caratteristiche fondamentali del lavoro di indagine, per scoprire un crimine, è innanzitutto accorgersi che è stato commesso un crimine e quale crimine è stato commesso. Mi ricordo un bellissimo romanzo, il secondo romanzo dell'autore di Presunto Innocente, Scott Arrow. Sì. A metà il legal thriller, proprio il maestro dei legal thriller. La cosa bella era che a metà libro ancora non era chiaro quale fosse il reato, non chi fosse stato a compierlo, ma quale fosse ancora reato, cercava di capire chi era la vittima, esattamente, e di che cosa fosse vittima. Esattamente, quindi è questo, diciamo, è una caratteristica molto comune, perché se nei gialli è chiaro che il reato è quello, mm-hmm, nella vita reale molto spesso il reato non è chiaro, a volte non ci si accorge che è stato compiuto, a volte ce lo inventiamo nella nostra testa e perseguiamo persone che in realtà non hanno compiuto nessun atto criminale. E la realtà è fatta di due fasi. Devi scoprire chi è stato, sì, ma prima ti devi rendere conto di cosa è successo. E se davvero è successo qualcosa. Ovviamente non possiamo spiegare il senso del titolo La battaglia navale, se no spieghiamo una parte del significato del romanzo. Beh, no, in realtà no. Si può spiegare questo. Vediamo, dacci degli indizi. Beh, un lavoro di indagine è una battaglia navale. Okay. Si spara a caso. Non trovi. Acqua, non trovi. Acqua. Colpito. Colpito. È già colpito, non è colpito, è affondato. Quindi devi sparare nelle circostanze, nei luoghi circostanti. Se becchi un altro e se ti senti dire colpito, sai anche addirittura una direzione, se non un verso. Sai che devi continuare in rettilineo. Sai da che parte, ma... Mi hai fatto venire voglia di giocare a battaglia navale. Adesso concludiamo questa trasmissione e io e Marco Malvaldi ci mettiamo a giocare a battaglia navale e poi diremo agli ascoltatori chi ha vinto tra noi due. Assolutamente, è un gioco di abilità. È un gioco di abilità, mi raccomando, non si possono mettere più di un, come si dice, più di un quadratino sul bordo, ti ricordi le navi? Sì, no, perché le regole sono regole. Le regole sono regole. Questo era Marco Malvaldi con una nuova puntata dei famosi Vecchietti del Barlume. Il romanzo, lo ricordiamo, si intitola La battaglia navale, pubblicato come gli altri da Sellerio. Se vi piacciono i gialli ironici alla Malvaldi, allora vi consiglio altri due giallisti, sempre della scuderia Sellerio, Antonio Manzini e Alessandro Robecchi. Robecchi, l'ultimo romanzo si intitola Di rabbia e di vento. Di Manzini, in particolare, trovate su radio24.it un'intervista sul suo personaggio seriale, Rocco Schiavone, vicequestore romano trasferito suo malgrado nella fredda Aosta. Dovete cliccare naturalmente nella sezione Il cacciatore di libri. L'ultimo romanzo di Manzini si intitola 7-7-2007. Fidati di me, del mio fiuto aritmetico, fidati di me, ogni caso rimedio. Grazie per la consulenza musicale e per la regia Gianmarco Ferronato. Il cacciatore di libri, come sempre, vi aspetta il sabato alle 6:30 del mattino e alle 22, e in questa edizione speciale estiva alle 10 del mattino, sia di sabato che di domenica. Una buona lettura a tutti da Alessandra Tedesco.